so far is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ciao a tutte, ciao a tutti, questa è una nuova puntata della Mucca Libera, l'unico programma antispecista di Radio Asilo, in onda appunto su www.radioasilo.it tutti i lunedì dalle 19 ed in replica il giorno dopo, il martedì dalle 11. Ho ricordato anche l'orario. Ciao. Ciao, ciao a tutte e tutti. Cominciamo subito con la nostra sezione che è dedicata alle notizie che in questa settimana hanno interessato il mondo degli animali non umani. E la prima notizia riguarda un caso di aggressione, che molto mi fa sorridere perché la notizia è, come spesso capita, definita come un'aggressione da parte di un animale non umano verso un animale umano. E l'episodio si è verificato a Castelbuono, che è una zona vicino Caltanissetta. Un allevatore di Castelbuono, un uomo di 46 anni, stava svolgendo la sua funzione quotidiana. In sostanza stava scaricando una mucca dal suo camion per condurlo nelle sale della macellazione, perché era arrivata, aveva portato la mucca a questa struttura, un frigomacello di una cooperativa della zona. E appunto la notizia è che nel farla scendere dal camion, quest'uomo è stato caricato dalla mucca, lo ha scaraventato contro il mezzo, ha cercato di fuggire e in realtà è riuscita anche a fuggire per un tratto, però poi purtroppo è stata ripresa. E tra l'altro a nulla le è servito cercare di scappare verso le campagne che erano là vicino, è stata immediatamente ripresa da un operatore del frigo macello e tra l'altro è stata abbattuta immediatamente. E l'uomo ha battuto, diciamo, appunto contro il suo stesso mezzo, poi dopo è caduto a terra, quindi ha perso conoscenza perché ha battuto violentemente il capo, per cui sono arrivate sul posto delle ambulanze, li soccorso, è stato portato al più vicino ospedale, appunto a Caltanissetta. E comunque ha ripreso subito dopo i primi soccorsi, ha ripreso conoscenza, quindi ha poi in effetti avuto un trauma cranico, un trauma toracico, però è all'ospedale. Ma sul posto sono arrivate, a parte le due ambulanze, l'elisoccorso per soccorrere la persona, sono arrivati anche i carabinieri della vicina stazione, è arrivato il corpo forestale, tutti quanti, insomma, per abbattere questa mucca, che negli articoli che leggevo fin dall'inizio è definita, diciamo, una mucca anomala in un certo senso, perché in qualche modo tradisce diciamo, l'attitudine mansueta, c'era scritto, che viene in genere assegnata alle mucche, e questa cosa mi ha particolarmente irritato, perché come sempre appunto la mansuetudine, diciamo, come un commento che abbiamo fatto mi sembra anche la settimana scorsa riferito alla fuga di M49, un comportamento mansueto è quello che viene considerato per l'animale non umano, è quello viene considerato tale quando volontariamente ci si fa condurre ad un macello senza opporre alcun tipo di resistenza. A me sinceramente non stupisce affatto che questa mucca, sentito l'odore della morte che le si avvicinava, abbia tentato in tutti i modi di sfuggirne, e non per questo la ritengo un animale meno mansueto o da un comportamento, diciamo, non violento, insomma, non ritengo che sia un comportamento violento quello di cercare in tutti i modi di sfuggire ad una morte cruenta che ti è stata assegnata da altri. Ok, passiamo a parlare di orse e di orsi, riprendendo la notizia, anzi due notizie della puntata precedente. Il primo richiamo che voglio fare è quello riferito a M49, di cui parlammo la settimana scorsa, e dicemmo che aveva anche questo radiocollare, se non sbaglio si dice così, per essere individuato, e intanto, insomma, è passata una settimana e fortunatamente M49 non ha dato tracce di sé alle guardie che lo stanno cercando, quindi questa è una prima buona notizia che volevamo dare questa sera. La seconda notizia riguarda l'altra orsa, JJ4, di cui dicemmo appunto che c'era stata questa ordinanza del TAR contro il suo abbattimento. E approfondiamo questa sentenza da un articolo di cronaca locale del Trentino Alto Adige, che ci parla appunto che l'ordine di abbattere JJ4 secondo il TAR è secondo il TAR una misura che si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Questa appunto la motivazione. Dunque l'invocata uccisione al momento pare una scelta eccessiva, riporta il quotidiano locale. Il Tribunale, nell'accogliere la richiesta delle associazioni ambientaliste e animaliste e quella del Ministero dell'Ambiente di sospendere l'ordinanza di abbattimento firmata dal Presidente della Provincia fino alla scelta nel merito, ha infatti sottolineato che l'amministrazione poteva sì emettere l'ordinanza, ma non poteva prescindere dal considerare e valutare le altre misure energiche della cattura con rilascio allo scopo di spostamento e o radiomarcaggio, come appunto è avvenuto con M49, no? E della cattura per captivazione permanente, pure contemplata nel caso di un orso pericoloso, dando puntualmente conto nel contesto del provvedimento impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura dell'abbattimento. I giudici amministrativi evidenziano il fatto che le precedenti ordinanze del luglio 2017, del 1 luglio 2019 e del 22 luglio 2019, legate sempre a comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di orso, condizionavano l'abbattimento al fatto che sussistessero al momento della cattura situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi o dei forestali impegnati. Ritenendo meritevoli di accoglimento le istanze cautelari, il TAR ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento e fissato al 22 ottobre l'udienza per decidere nel merito sul ricorso. Dunque, pericolo di essere soppresso momentaneamente scampato per GG4. Sempre il TAR consiglia poi all'amministrazione di intraprendere un'altra strada. Lascia alla provincia la possibilità di emettere ulteriori provvedimenti che, aperte virgolette, potranno tener conto delle risultanze dell'auspicato confronto tra la stessa amministrazione provinciale e le competenti amministrazioni statali, non limitato alla fattispecie in esame, ma esteso a possibili soluzioni del problema d'ordine generale evidenziato dagli accadimenti oggetto di causa, e cioè nello spirito dello stesso principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e la provincia di Trento, da adibirsi anche nella gestione della fauna selvatica. Su questo abbiamo visto che il Ministero si è dichiarato contrario all'abbattimento di GG4. Anche se si è dichiarato contrario con una lettura assolutamente specista, terribile, quello che hai appena detto, io comunque lo trovo terribile che continua a parlare di comportamenti pericolosi di altre specie, e trovo che sia in ogni caso, anche se a favore della vita dell'animale in un certo senso, comunque terribilmente specista. Intanto nella notte tra il 28 e il 29 luglio, ricordo che nel Trentino è stata catturata un'orsa adulta con tre cuccioli, e si è supposto che fosse appunto GG4, per cui è stata, come previsto dalla normativa locale, è stata prelevata, le sono state fatte delle analisi, e solo poi l'analisi del codice genetico ci dirà se si tratta effettivamente di GG4 oppure no. E nel frattempo è stata anche radiocollarata e poi rilasciata. who like boys, two big girls, who two boys like their girls, who two girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, two big girls, who two boys like their girls, who two girls like their boys. Always should be someone. Questo è sempre La Mucca Libera, il programma antispecista in onda su www.radiasilo.it, in cui cerchiamo di informarvi su quella che è la situazione delle altre specie. La prossima notizia riguarda appunto un altro dei tanti orrori che noi creiamo per le specie diverse dall'umano. E tra questi orrori c'è sicuramente anche tutta quella che è la ricerca scientifica basata sul dolore e la sofferenza delle altre specie. Questa notizia in realtà riprende una questione che è un po' vecchia, dura già da diversi anni, e precisamente da quando le università di Torino e Parma, con un progetto dal titolo anche bello, perché il nome del progetto è Light Up, ma in realtà è un progetto di crudeltà ed orrore indefinibili. E dunque queste università ebbero approvato dall'Unione Europea, finanziato uno studio che vede come protagonisti i macachi. In realtà in queste sperimentazioni sui macachi quello che accade è che purtroppo questi primati sono operati più volte al cervello, sono accecati chirurgicamente. E tra l'altro provando dei livelli di dolore altissimi e, fino ad arrivare alla cecità e alla morte, che in questo percorso pare quasi essere una liberazione visto l'orrore a cui sono sottoposti. Un orrore talmente tanto evidente che già al momento del finanziamento da parte dell'Unione Europea ha risvegliato l'opinione pubblica di chi magari è più sensibile rispetto a queste atroci sofferenze inflitte alle specie non umane, e infatti è partito dalla LAV, la Lega Antivivisezione, un ricorso al Consiglio di Stato affinché una petizione e poi un ricorso affinché potesse essere fermato questo studio terribile, e prima che appunto la vita di questi macachi sia orribilmente diciamo fermata. Infatti lanciarono anche un hashtag Macachi Liberi ed hanno fatto anche una serie di iniziative nei confronti di questa, appunto oltre alla petizione hanno fatto anche raccolte fondi, hanno fatto anche delle manifestazioni avanti al Ministero della Salute proprio per ribadire la richiesta che venisse negata l'autorizzazione a questo progetto, e che, come hanno sottolineato poi nel ricorso che hanno fatto anche al Consiglio di Stato, a quanto pare questo progetto in realtà sarebbe anche al di fuori delle normative legali che permettono, come ben sappiamo, la sperimentazione sugli animali, ma non diciamo la sofferenza che prevede questo tipo di progetto. E studiando le carte, tra l'altro, la Lab ha scoperto che i primi due macachi del progetto sono stati restituiti, diciamo, al mittente dopo alcuni mesi, perché malati, e scambiati con due nuovi macachi. Quindi è proprio mostrando quindi tutto quello che è l'atteggiamento, l'idea che c'è alla base di questo progetto, che vede i macachi non come degli esseri viventi, ma semplicemente come degli oggetti di un destinatari di interventi chirurgici o altro. Tra l'altro è già accaduto in passato che in dei progetti di sperimentazione animale, io ricordo che è già successo anche esperimenti dell'università o altro, che quando gli animali si sono ammalati o comunque per qualsiasi motivo, ricordo il caso anche di gravidanze tempo fa o cose simili che rendevano impossibile proseguire il progetto con quegli stessi animali, ricordo che pur nell'obbrobrio della sperimentazione sugli animali, queste università o questi enti di ricerca contattarono delle associazioni animaliste affinché si facessero carico degli animali malati. In questo caso invece li hanno direttamente rispediti al mittente. Tra l'altro questi macachi, se non ricordo male, arrivavano dall'Olanda, quindi da malati hanno fatto un viaggio di ritorno dall'Italia all'Olanda, e non si sa che fine abbiano fatto, infatti, tra l'altro, a chi siano stati affidati, se siano bene adesso, nulla. Infatti, tra l'altro, la LAV chiede anche al Ministero della Salute che faccia sapere della sorte di questi due esseri viventi che sono stati trattati assolutamente come oggetti. Torniamo in voce per la prossima notizia, anche questa volta una notizia che di felice non ha nulla e che ha indignato un po', fortunatamente sotto un certo punto di vista, per la violenza che la contraddistingue, ha indignato un po' l'opinione pubblica, almeno sul web. È una notizia che arriva dallo zoo di Islamabad, dove una coppia di felini doveva essere trasferita da questo zoo ad un santuario. In realtà sono morti strada facendo. A quel punto il consigliere del primo ministro del Pakistan ha chiesto di conoscere le ragioni di questa morte, e ha anche istituito un comitato di inchiesta che ha appunto il compito di indagare su ciò che è avvenuto ai due felini, che sono un maschio e una femmina, e che sono morti a distanza di due giorni l'uno dall'altro per delle ragioni appunto che, nonostante l'istituzione di questo comitato, non sono ancora chiarissime. Qualcosa sicuramente è successo in questo passaggio, perché chi si occupa dello zoo, ma pare che sia stato accertato anche da questo presidente della commissione che si occupa delle indagini, i due felini stavano bene prima di partire, quindi sono stati consegnati allo staff che avrebbe dovuto poi curare il passaggio in salute. A quel punto in realtà un po' di chiarezza forse la fa un video che circola in rete, che, come spesso accade, è stato pubblicato su Twitter e poi ha fatto un po' il giro del mondo, che mostra proprio come ai felini in realtà nel trasferimento sia stato un trattamento brutale. I dipendenti dello zoo stesso volevano, appunto, per prepararli al trasferimento, volevano spostarli in un'altra gabbia ed hanno fatto una scelta che era quella di servirsi di un incendio per poterli far spostare. Sostanzialmente hanno appiccato un fuoco a circa mezzo metro, si vede nel video, dai leoni, poco distante dai leoni. Ovviamente i due, a quel punto i due felini, sono stati costretti a spostarsi. Tra l'altro erano molto spaventati evidentemente dal fuoco, per cui gli operatori dello zoo si sono serviti anche di alcuni bastoni per pungolarli e per costringerli a trasferirsi. E ovviamente, nonostante questo, forse appunto per la paura, il trasferimento da questa gabbia all'altra per poter essere poi trasportati al santuario ha richiesto un po' di tempo, per cui sui social l'idea di base che circolava, leggevo anche un po' nei commenti, alcuni commenti anche abbastanza diciamo sul pezzo presenti, mi sembra molto attenti, che ipotizzavano tra le cause che ci potesse essere appunto una morte per soffocamento, ossia evidentemente i leoni in questa situazione hanno ispirato eccessiva anidride carbonica e poi non hanno retto, il corpo non ha retto, per cui durante il tragitto sono entrambi morti, come dicevo prima, a poca distanza l'uno dall'altro. In ogni caso è un video chiarissimo che mostra un gravissimo maltrattamento. Tra l'altro fa male al cuore pensare che questi leoni erano destinati a un santuario, quindi in realtà potevano finalmente passare da una situazione di prigionia come quella di uno zoo ad una situazione sicuramente molto più di vita, molto più degna che quella all'interno di un santuario. Ed è chiaro però che il maltrattamento che hanno subito è assolutamente orribile e mi verrebbe da dire assolutamente inaccettabile. In realtà questa commissione d'inchiesta ha fatto poi sapere che non è la prima volta che accade qualcosa del genere in un passaggio da uno zoo, da questo stesso zoo o da altri zoo al santuario, e che in passato sono morte anche altre specie viventi, struzzi, gabbiani e anche degli uccellini. Eccoci di nuovo in onda, partiamo con la rubrica che abbiamo inaugurato due puntate fa, quella di letture e visioni antispeciste, parlando di un documentario molto importante che verrà prodotto nei prossimi mesi, quindi questa volta parliamo non di qualcosa già in onda oppure pubblicata, ma di qualcosa che sarà preparata. È una notizia molto interessante perché Rooney Mara e Joaquin Phoenix saranno i produttori del documentario The End of Medicine, in cui si affronterà il tema delle malattie zoonotiche, di cui abbiamo parlato spesso in questa trasmissione, legato appunto alla diffusione del Covid e della pandemia, appunto. Malattie zoonotiche trasmesse dagli animali all'uomo e che minacciano la salute e la vita dell'intera popolazione umana. Il lavoro sul progetto in realtà è iniziato già nell'ottobre 2019, mesi prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus, che verrà comunque affrontata nel documentario, e questo è un particolare molto interessante perché può far capire anche la lungimiranza di Mara e Phoenix come attivisti, attivisti ambientalisti e animalisti, antispecisti, che comunque è nota e conosciuta in tutto il mondo. A realizzare The End of Medicine saranno Keegan Khan, che è l'autore di Cowspiracy, un altro documentario molto famoso di cui magari parleremo specificamente in una prossima puntata, in questa rubrica. E il regista sarà Alex Lockwood. In questo documentario prodotto da Phoenix e Mara, coppia, come dicevo, molto impegnata per la difesa degli animali e dell'ambiente, si spiegherà come i germi e i virus si diffondano passando da una specie all'altra, oltre a proporre interviste a scienziati di fama mondiale ed esperti che illustreranno i motivi per cui l'emergenza che stiamo affrontando era purtroppo inevitabile e non si può considerare terminata. Questo mi fa venire in mente il lavoro di David Quammen, Spillover, che pur pubblicato nel 2012, se non erro, insomma, è stato ripubblicato per Adelphi e ovviamente ha venduto molto in questo periodo, perché preannunciava anni prima tutto quello che poi purtroppo è successo. I nuovi virus sono stati inoltre anticipati da veri virus, epidemie e infezioni legate agli allevamenti. Rooney e Joaquin hanno dichiarato: speriamo che The End of Medicine faccia aprire gli occhi e faccia entrare in azione, dando il via a una volontà di cambiare le nostre abitudini. La scienza è inconfutabile, l'agricoltura moderna animale continuerà a farci ammalare se non cambiamo radicalmente le nostre abitudini. Invece Lockwood, che è il regista di questo documentario, ha dichiarato: collettivamente stiamo diventando sempre più consapevoli della minaccia che rappresentano le malattie zoonotiche, ma i nostri governi e i mezzi di comunicazione si concentrano prevalentemente sul combattere l'incendio piuttosto che prevenirlo. Con questo film speriamo di portare alla luce quanto gli allevamenti intensivi e la distruzione dell'ambiente contribuiscano a questi pericoli. Speriamo inoltre di svelare come le questioni legate alle ingiustizie razziali e alle malattie spesso siano intrecciate. torniamo in voce per in realtà tornare per un secondo alle notizie che abbiamo fatto questa piccola incursione nel mondo invece delle visioni e delle letture e ritorniamo per un secondo a quella che è invece la questione delle notizie per dare una notizia che in realtà è di oggi che riguarda una zona molto vicina a noi perché è nella provincia di Salerno, per la precisione a Ponte Cagnano. Stamattina proprio a Ponte Cagnano è stata in alcune zone, in alcune aree della città sono state effettuate delle operazioni di bonifica. Questo perché molte persone avevano segnalato in questi giorni la presenza di materiale che esche o bocconi avvelenati che hanno causato la morte di numerosi animali. E sette cani tutte sulla zona, tutte più o meno nella stessa zona e è stata così veloce questa diciamo escalation di morti che ha determinato proprio sabato il 1° agosto addirittura un'ordinanza sindacale emessa appunto dal sindaco in cui si disponeva che in queste zone per il momento gli animali siano tenuti al guinzaglio e siano muniti anche di museruola. Questo perché è una prescrizione diciamo in questo caso a tutela degli animali proprio perché in questi luoghi sono stati rinvenuti anche ancora molti oltre quelli che hanno determinato la morte degli animali molti altri bocconi che sono sospetti e che sono stati prelevati da alcuni cittadini o da alcune associazioni e che saranno analizzati, quindi alla fine dell'analisi si saprà se effettivamente sono bocconi avvelenati oppure no. Di certo i sette cani purtroppo sono morti per dei bocconi avvelenati e la situazione è peggiorata talmente tanto nel giro di pochi giorni che appunto decine e decine di cittadini si sono sollevati rispetto a questa situazione ed hanno fatto sì che ci fosse appunto questa ordinanza che in realtà non è che faccia molto se non diciamo con una prescrizione se vogliamo repressiva nei confronti degli animali e dei loro padroni cerca però di evitare che ci sia l'ingestione di nuovi bocconi. Intanto purtroppo devo dire che nella zona della provincia di Salerno non si è nuovo rispetto a questi raid diciamo di killer di animali, gatti e cani domestici, perché ogni tanto si sentono queste notizie. L'ultima ricorda era stata pochi mesi fa in un altro paese poco distante da Salerno, nella provincia di Salerno, Bellizzi, in cui un uomo aveva purtroppo prima di essere identificato e quindi evitato che proseguisse la sua azione, purtroppo aveva causato la morte di diversi animali con questi bocconi avvelenati. Adesso passiamo dal settore notizie a quella che è la lettura di un comunicato che ci è piaciuto particolarmente rispetto di Resistenza Animale, quindi pubblicato sul blog resistenzaanimale.noblogs.org rispetto alla situazione di M49. E il comunicato è il titolo è Comunicato di Resistenza Animale per il compagno orso resistente. E quindi sin dal titolo secondo me è particolarmente esplicativo ed inizia con, devo per forza narrarvelo perché non c'è altro modo, perché inizia in realtà con due foto a confronto della stessa grandezza ed entrambe in primo piano dove però a sinistra troviamo M49 che è stato ribattezzato tra l'altro da molti antispecisti come orso resistente, e dall'altra parte invece c'è Fugatti, che è il presidente in primo piano, che c'è il presidente della provincia di Trento. E quindi inizia con queste due foto messe a paragone, leggo il comunicato: vi pare che l'essere umano che vediamo a destra abbia qualche vago strumento di corretto approccio nei confronti dell'altro essere, quello a sinistra? Analizzando i fatti sembra proprio di no. Orso resistente è già leggenda. Evade clamorosamente per la prima volta nella notte del 15 luglio 2019, neanche un'ora dopo essere stato catturato, a causa delle numerose denunce di danni da parte degli allevatori della zona. Evade nonostante il recinto del Casteller, così viene chiamato una collina sopra Trento, sia reputato super sicuro, addirittura tra i più sicuri in Italia, e gestito dall'Associazione Cacciatori Trentini. Qui orso resistente viene scaricato direttamente dalla gabbia trappola a tubo che lo aveva imprigionato, senza il radiocollare che gli era stato messo nell'agosto del 2018. E lui non si scoraggia, anzi, nell'ora immediatamente successiva alla cattura, riesce a sfondare tre recinzioni elettrificate a 7000 volt e a scavalcare un muro elettrificato alto 4 metri e mezzo. Una prigionia quanto mai evanescente, che suscita persino dei dubbi sulla sua veridicità, tanto che l'amministrazione provinciale è costretta a metterne in rete il video per assicurare della sua reale avvenuta. Fugatti, attuale presidente della provincia autonoma di Trento, allibito, non tarda ad affermare che è già pronta un'ordinanza di abbattimento con l'ordine di sparare a vista, come se l'abilità, la resistenza e la perspicacia dell'animale costituissero un affronto, un oltraggio da lavare, ovviamente col sangue dell'orso. Nei mesi successivi, Orso Resistente si gode appieno la libertà riconquistata e, con l'arrivo dell'inverno, fa perdere completamente le sue tracce. Viene avvistato solo al risveglio dal letargo e i segnali del suo passaggio raccontano di lunghi itinerari attraverso la Valle dell'Adige, superando anche ferrovia, autostrada e fiume ed eludendo ogni tentativo di cattura. Nel periodo di Pasqua è sul Monte Carega, al confine tra il Trentino e il Veneto, a godersi il sole e la neve. Questo un video, e lì c'è il link nel comunicato, che lo riprende mentre se la sta spassando alla grande. Si dirige poi verso il lago di Garda e da lì, in una decina di giorni, si muove verso nord e poi ancora a ovest, verso l'area dove gravitava l'estate prima, dimostrando, oltre che grandi abilità di movimento sul territorio, anche la capacità di ritrovare determinate zone, pur in un ambiente complesso e sconosciuto con infinite barriere ecologiche e strutturali. Nell'aprile del 2020 riesce a, virgolette, ritornare a casa, chiuse virgolette, ma è qui che il 28 aprile scorso viene nuovamente catturato. Nei mesi precedenti alla sua seconda cattura, il recinto del Casteller viene fortificato con l'inserimento di nuovi pannelli al posto delle reti, più difficili da scavalcare, ma nulla vale ad impedire la nuova fuga di orso resistente. Dopo una prigionia durata solo 3 mesi, nella notte del 27 luglio, sebbene castrato chimicamente, indebolito e di nuovo radiocollarato, beffa un'altra volta i suoi carcerieri, dimostrando una forza e una volontà sorprendenti. Supera la barriera elettrica e, raggiunta l'ultima recinzione, forza in diversi punti la rete elettrosaldata, piegando l'inferriata fino a ricavarne un'apertura sufficiente per scivolare all'esterno, più o meno nello stesso punto dove aveva scavalcato la prima volta. Un punto, tra l'altro, fuori dal raggio di azione delle telecamere. Più che una leggenda, una seconda fuga ancora più clamorosa della prima. Il presidente Fugatti, nonché deputato leghista, sembra proprio non riuscire a spiegarsi e a spiegare l'accaduto. D'altra parte, non si è ancora dato per vinto del blocco della sua proposta di banchetti a base di carne d'orso per le feste estive della Lega. Cade la testa del responsabile del corpo forestale provinciale, ma non quella di Fugatti, che, da buon maschio decisionista, resta al suo posto, ma sempre più imbarazzato, anche a seguito della sospensione definitiva, confermata il 30 luglio, della sua ordinanza di abbattimento per l'orsa GJ4, ancora latitante, responsabile, udite udite, di aver difeso i suoi cuccioli. Attenta all'orso, quindi, sì, poniamo davvero tutta la nostra attenzione a percepire questi ingombranti animali sempre e solo con rispetto ed emozione verso la loro irriducibilità e preziosità di esseri unici, viventi e senzienti. Ci vuole delicatezza, conoscenza, curiosità, rispetto, giusta distanza spaziale, giusta vicinanza emotiva e solidarietà. Sviluppiamo in noi queste capacità per tutti quegli orsi marchiati con anonime sigle tecniche che in territorio trentino rischiano sempre più persecuzioni quando non la vita stessa. In caso di incontri ravvicinati con questi animali, sarebbe di massima importanza conoscere le regole base da mettere in pratica in questi casi, come quello tenuto da una turista in Messico che ha gestito in tranquillità l'incontro, o da Alessandro, il bambino che nel maggio scorso ne ha incontrato uno o una sulle Dolomiti. Ma attenti soprattutto a Fugatti, una persona che ha celebrato il suo neo mandato di presidente della provincia di Trento con un barbecue a base di carne d'orso, in barba ai divieti e nel territorio stesso in cui è responsabile del loro ripopolamento. Davvero un bel esempio incarnato di rispetto della fauna selvatica protetta, delle leggi relative e dei succulenti finanziamenti europei stanziati in base al progetto Life Ursus per una più efficace e soprattutto non cruenta convivenza interspecifica. Non c'è che dire, l'arroganza dei dirigenti incompetenti della provincia autonoma di Trento, da Dell'Ai a Rossi fino a Fugatti, dal centro-sinistra al centro-destra, è davvero un'iperbole costante. Le stesse linee guida del Paco Bace, piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali, sono state completamente stravolte ad esclusivo uso politico ed elettorale. Queste le parole entusiaste di Rossi, predecessore di Fugatti, e oggi sotto processo per l'uccisione di KJ2, sotto processo anche il funzionario provinciale dimessosi in questi giorni, rilasciate enfaticamente nel 2017. Virgolette. Il progetto europeo di ripopolamento degli orsi in Trentino è stata un'esperienza di successo, considerato che oggi, a 20 anni dal suo inizio, abbiamo sul territorio, caso unico in tutto l'arco alpino, una popolazione di orsi bruni fra i 50 e i 60 esemplari. Anche a livello europeo, il caso trentino è visto con grande favore. Chiuse virgolette. Di quale successo parla Rossi? Ad oggi il triste bilancio resta quello di due orse accoppate, Danizza nel 2014 e KJ2 nel 2017, Yurka catturate nel 2007 e condannate all'ergastolo al Casteller, uno spazio grande come un campo di calcio. Virgolette, gli orsi sono formidabili e instancabili camminatori e ancor più abili nuotatori, si spostano in territori ben definiti ma ampi, riuscendo a coprire un raggio di 20 km per individuo. Chiuse le virgolette, e numerose altre taglie pendenti su altri orsi e altre orse per il semplice fatto di comportarsi per quello che sono, da JJ4, che è la figlia di Yurka, a orso resistente. Animali capaci di resistere tenacemente ai loro inseguitori e che, rivoltandosi contro l'ordine costituito, riescono a metterlo fortemente in crisi. Ma chi è per tutti questo orso chiamato M49 dai tecnici faunistici e Papillon dal ministro Costa? È un giovane orso che, come tutti gli individui, vuole solo vivere libero, scegliere cosa mangiare, dove andare, esplorare, come giocare, come oziare, come odorare, e lo ha dimostrato più che chiaramente con la forza delle sue evasioni e delle sue ribellioni, con la tenacia di chi non può fare a meno dei boschi e delle montagne, dei fiumi e della neve. Un compagno ribelle che ora cerca di sfuggire ai monitoraggi, agli appostamenti delle guardie forestali, ai cani, sul Monte Marzola dove si è rifugiato. Un compagno che sta dimostrando al mondo intero il suo coraggio e i suoi insopprimibili desideri, la sua inestinguibile sete di libertà, davvero ribelle e resistente. solidali con la resistenza animale ora e sempre. Ho voluto leggere questo comunicato di Resistenza Animale perché lo trovo particolarmente importante, in quanto tocca, anche se brevemente, i punti fondamentali, che sono sicuramente il desiderio di libertà dell'orso, l'incapacità da parte della specie umana di rapportarsi agli orsi e che determina poi dopo le condanne per queste altre specie, e soprattutto la gestione cinica, senza cuore e priva di qualsiasi fondamento politico, che hanno avuto tutti i governi dal centrodestra al centrosinistra che si sono succeduti in quelle zone. Torniamo in onda per i saluti, ringraziamo chi ci ha ascoltato anche questa sera, domani saremo in replica alle ore 11, ricordo la mail per scrivere la trasmissione, lamuccalibera@autoproduzioni.net, poi ricordo anche il canale Telegram della trasmissione, La Mucca Libera, si trova su Telegram, e poi niente, vi ringrazio